taglio può essere perfetto, ma il difetto è il male che ti fa. E so che ogni cosa ha il suo prezzo, ma non voglio più pagarlo io per te. E finalmente dico ciò che penso, guardo dritto in faccia la realtà. Perché vivere non è un gioco di paure, o almeno non per me. E da domani non ti amo più, ho messo via i fantasmi del passato. E a meno che non cambi tu, non voglio più riflettere la tua immagine. Imparerò a scegliere soltanto quello che sento da domani. Uno sbaglio può essere perfetto se ti fa capire ciò che vuoi. E non serve arrampicarsi su uno specchio, tanto lo sai che si cade prima o poi. Perché vivere non è un gioco di paure, o almeno non per me. E da domani non ti amo più, ho messo via i fantasmi del passato. E a meno che non cambi tu, non voglio più riflettere la tua immagine. Imparerò a scegliere soltanto quello che sento. Ci sono cose che non puoi più sopportare, lo sai. Che oggi è l'ultimo giorno per noi, oggi è l'ultimo giorno. Ho messo via i fantasmi del passato. E a meno che non cambi tu, non voglio più riflettere la tua immagine. Imparerò a scegliere soltanto quello che sento da domani. Anche un taglio può essere perfetto.